Rockway, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo, buonasera a tutti. Ogni mercoledì, oggi mercoledì d'agosto, di solito il mercoledì d'agosto ci riposa, ma noi no, non ci riposiamo, andiamo avanti. Abbiamo, stasera sono molto contento, li ho pescati proprio così per caso, però sono stato estremamente soddisfatto. Stasera abbiamo la piccola bottega Baltazar con un nuovo disco, Radici. Un disco che è uscito solo un anno dal precedente, che è un disco molto importante del precedente. Parlando con voi a microfono spento avete detto, secondo noi quel disco è forse l'apice della nostra carriera, il disco precedente. Sei d'accordo? Beh, Giorgio? Sì. Come diciamo l'ultimo, a differenza del primo amore che non si scorda mai, nel nostro caso è il contrario. Ah, perfetto. L'ultimo amore che non si scorda, quello che conta di più, insomma. Mi pare che sia il quinto quel disco là, o sbaglio? Allora, facendo la somma, in realtà è il nostro quarto disco, Ladro di Rose, disco. E questo ultimo che è uscito in primavera, Radici, appunto, è il quinto disco della bottega. Cioè, Radici lo possiamo ridefinire come, secondo voi, non dico una raccolta, una summa del decennale della produzione? In un certo senso sì, in realtà è una raccolta di canzoni della bottega, però selezionati secondo un tema più o meno preciso, che era il collegamento con il Veneto. Con il Veneto, sì, perché ci sono i pezzi in Veneto e pezzi in italiano. Sì, è un progetto che è nato proprio per essere distribuito nelle edicole con i quotidiani locali, e quindi ci piaceva l'idea di proporre qualcosa che fosse legato al territorio, insomma. Ecco. Perfetto. Visto che ci siamo, adesso sono già accese le telecamere, vi stanno vedendo tutti quanti, grazie a Roberto Baldi che cura le telecamere, Michele Toson cura la regia. Presenta anche i tuoi colleghi, Giorgio, dai. Allora, per chi ci vede e anche per chi non ci vede, la piccola bottega Baltazar è formata da Sergio Marchesini alla fisarmonica. Ciao a tutti. Poi abbiamo Antonio De Zanca al contrabbasso. Ciao. Giorgio Gobbo che vi parla, cantante e chitarrista, poi Marco Toffanin alla fisarmonica. Ciao ciao. E Graziano Colella, che è il nostro batterista, che questa sera abbiamo lasciato a casa. Lo salutiamo. Sì, a Chiampo con moglie e figlia per problemi di spazio. Non ci stava, non ci stava, sì. Idealmente ci sta in ogni caso. Graziano ci sta sempre. Ecco appunto. Quindi abbiamo parlato di questo progetto che mi dicevi a microfono spento che era nato alcuni mesi fa, è nato ancora nel 2010 praticamente l'idea, anche prima forse. C'era questa possibilità per noi, peraltro molto importante, di questa distribuzione capillare attraverso le edicole, no? Esattamente, l'ha fatto anche Prince un po' di tempo prima di noi. Dai. Sono 3 milioni di copie, lui l'aveva... Sempre l'aveva... col mattino. Col mattino, sì, anche Prince col mattino. Col mattino di Detroit e la Gazzetta dell'Illinois. Oh, perfetto, ok. E niente, quindi poi sembrava che non se ne facesse più niente, e poi alla fine del 2010 invece si è concretizzato questa possibilità, e quindi in 2 mesi, perché il disco è uscito l'11 marzo, certo, sì, di quest'anno, a Padova, Venezia e Treviso, e poi a giugno è uscito anche a Verona e Vicenza. Bene. E abbiamo preparato questo progetto, in realtà prendendo le canzoni dei nostri dischi e 7 dall'ultimo. Sette pezzi dal Ladro di Rose, esatto. Insomma, abbiamo fatto vedere un po' il meglio la nostra produzione e poi altri brani presi dal repertorio precedente, sempre appunto legato al Veneto, un brano inedito che si intitola Cercando un paese, in dialetto, una delle nostre canzoni scritte in dialetto. Certo. E una versione dal vivo di A Foghi Spenti, uno dei nostri classici, registrata a settembre dell'anno scorso a Mestre, al Centro Culturale Candiani, ed infine una versione remix di Lentiggine, un altro brano tratto da Canzoni in forma di fiore, che era un disco del 2004. Come mai anche voi la versione remix? No, non è mica una battutaccia, no? Perché i panni della folk band ci stanno stretti sostanzialmente, è vero. Per cui a volte, cioè, in tutte le maniere possibili, cerchiamo così di essere curiosi, sperimentare suoni nuovi. Siamo più contenti quando ci riusciamo sfruttando i nostri strumenti senza ricorrere all'elettronica. Certo. Cosa che abbiamo fatto, secondo me, bene nel Ladro di Rose, l'ultimo disco. Sì, Ladro di Rose si allontana, non sempre, cioè il letto musicale esiste sempre, ma si allontana leggermente dal solito vostro trend musicale. Ed è giusto che sia così, cioè in evoluzione. Sì, direi di sì, e, insomma, è anche nostro dovere, direi, provare a sganciarci dai cliché, sempre, insomma, un po' uno dei nostri comandamenti, fare questa operazione qui, insomma. Benissimo, come dal nostro comandamento, apriamo la finestra e presentiamo un pezzo che avete scelto da Radici. Ti ricordi la traccia? Ok, allora io direi che potremmo iniziare dalla traccia numero 3 che segnalo appunto in regia. Michele è bravo, l'ha segnato, sì, io, sì, io sì. Mi ricordavo assolutamente già quello che avevamo scritto prima. Ed è una canzone che si chiama Cercando un paese, un invito al viaggio che cita luoghi molto così vicini a noi, ma che rappresentano proprio un viaggio sentimentale nel nostro territorio, nella nostra regione, un punto di partenza. Perfetto. Dista quando il ciaro me chiama, vegnerò su dal fondo dei campi, guardando nei porteghi vuoti, cercando un paese per me. Co calma, sua terra ancor crua, da cima a Ortigara a tre porti, dai rami del Po alle piere del Pelmo, dove dise se senta il Signor. E mi go cerca e vago ancora, mi go cerca e vago ancora. Oppure foschia che se desfa nel buio de un sole che se sfoga, coi boce che tase, guardando e barene, dai macchine ingrumae sora il ponte, col clacson che suonerà a morto, sto viaio te potrà apparere, restare fermo in teo stesso posto, nel paese dove notte si sta mai. E mi go cerca e vago ancora, mi go cerca e vago ancora. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Come si conviene, non diciamo nei greatest hits, nelle raccolte, ma anche raccolte, c'è sempre un inedito, ma un inedito di un certo peso. Questo qua è un inedito di un certo peso, che poteva sviluppare anche tematiche, anche un disco nuovo al limite. Beh, noi non buttiamo via niente, come i nostri vecchi. Ecco, una cosa che ci piace conservare è questa tendenza a non buttare via niente. E quindi bisogna recepire, bisogna ricavare, riprendere tutto quanto. No, in realtà è un pezzo che insomma noi è, così amiamo molto. Ecco, questo Cercando un paese si collega proprio a delle esperienze personali di gruppo di provincia che ormai questo Veneto l'ha girato in lungo e in largo, vedendone le cose belle e anche toccando con mano le sue contraddizioni e anche tante cose brutte, insomma, per cui ci sentiamo autorizzati a parlare del Veneto. Ecco. Vagabondaggio sentimentale, avevi detto. Esattamente, sì, è una, come dire, una definizione poetica che descrive bene, insomma, il nostro stato d'animo rispetto a questo. E cose. Lo avete già provato dal vivo più di una volta questo pezzo qua? No, questo brano qui rimane ancora, sospeso. Rimane ancora sospeso, e però arriverà anche però il momento. È il momento, insomma, giusto. Sì. E come l'avete musicalmente, come l'avete costruito in sala? Beh, questo, come per il disco precedente, questo brano che abbiamo appena sentito deve in parte al contributo di Carlo Carcano, che è il produttore, vi ha dato una mano, insomma. Esatto, che è il produttore artistico. Del disco precedente, anche per questo inedito ci ha dato delle dritte importanti per svilupparlo, e deve molto anche, tra l'altro, a Max Trisotto, che l'ha mixato con alcune intuizioni non da poco, sì, geniali come al suo solito. Non entro nel dettaglio tecnico perché magari non potrebbe essere non interessante per il pubblico che ascolta, però devo dire che sì, insomma, ha preso una canzone e secondo me l'ha resa un po' magico. Max insieme a Carlo, insomma, hanno fatto questa cosa. Dobbiamo sottolineare una cosa, che per la prima volta il Ladro di Rose c'è un produttore artistico che non c'era nei dischi precedenti, perché i dischi precedenti erano autoprodotti al 100% da voi, è così, mi pare. Sì, artisticamente sì, abbiamo sempre autoprodotto la nostra musica con grande indipendenza e autonomia, però a questo punto della nostra carriera, l'anno scorso sostanzialmente, abbiamo sentito il bisogno di un orecchio esterno che ci permettesse di appunto andare oltre i nostri percorsi consueti, insomma, senza chiaramente snaturare, anzi potenziando quello arricchendo sì, il disco. Sì, è stato sinceramente, io leggendo le recensioni quando abbiamo presentato qua, sono state tutto molte positive le recensioni che abbiamo trovato da questo disco nuovo, quello che è uscito l'anno scorso. Sì, è un disco che ci ha portato senz'altro, sì, avete sviluppato, allargato il raggio d'azione. Sì, siamo soddisfatti, ci ha regalato molto affetto da parte del pubblico e anche soddisfazioni dal punto di vista professionali con concerti e ad esempio la partecipazione. Parliamo un momento, se vuoi parlare di musicocultura. Sì, quest'anno 2011 è stato per noi un anno importante perché abbiamo partecipato a questo concorso che si chiama Musicultura, che per la canzone d'autore è probabilmente, insomma, uno dei più importanti in Italia. Abbiamo superato diverse selezioni arrivando alla finale, uscendo anche vincitori insieme ad altri 7 artisti, e abbiamo potuto partecipare alla finalissima allo Sferisterio di Macerata, un posto meraviglioso. Esattamente. E abbiamo portato a casa il premio per la miglior musica con la nostra canzone La donna del cowboy, anch'essa contenuto in Radici, peraltro. È importante sottolineare che questo pezzo, La donna del cowboy, che è contenuto in Ladro di Rose, è stata rimessa anche in Radici, è un pezzo, non dico diverso dal solito cliché volto, ma è un pezzo di evoluzione, sicuramente di evoluzione. Sì, direi di sì. Difficile dire diverso perché, ad esempio, il ruolo della fisarmonica sì, c'è sempre stato sarà sempre, sicuramente. Sì, è fondamentale, come lo è stato in tutti i nostri lavori precedenti. Però un utilizzo, un approccio diverso a questo strumento che troppo spesso, insomma, viene relegato nell'angolino del folklore o del liscio, insomma, ma che ha delle potenzialità molto superiori, ecco, certo, insomma, può certo essere molto espressivo anche in altri generi. E con La donna del cowboy ci siamo lanciati in questa opera di modernizzazione, insomma. Benissimo, allora facciamo una cosa di questo genere, sentiamo un altro pezzo da disco e poi suoniamo. L'altra traccia che avete scelto? Ma direi che potremmo senz'altro ascoltare, direi la numero 2, visto che abbiamo parlato della donna del cowboy, ascoltiamo questo brano che è la seconda traccia del CD Radici. Benissimo, adesso la sentiamo. Thank you. tutta la vita bassa di una tribù di jeans e sogni sgonfi lasciati sotto i banchi appiccicati. Poi ti ho presa per mano, ci ha aperto la porta un orso con l'auricolare, gli ho ammiccato e ci ha fatti passare. Ti ho presa di sorpresa con il bicchiere in mano nel parcheggio di un locale. Sei la più bella, sei la donna del cowboy. Siediti all'americana, sulla sella, posa il viso al tatuaggio e stringiti che inizia il viaggio. Lo so, sarà per te che salirò tutte le scale, mettendo a fuoco il centro commerciale. Ogni bancomat mi obbedirà. Scapperemo da soli noi due a bordo di un portavalori, e non importa se la gente inciampa o cade, se la gente griderà. Ora la parrucchiera ti dice buonasera e tua sorella finalmente lavora. Sarà abbastanza mai per la donna del cowboy. Come in un flipper l'intero rione si accende mentre passiamo noi, e a forza di spintoni si vince la partita. Così ad ogni colpo si vince un'altra vita. Sentiti i botti, la gente corre per guardare, ma tiene gli occhi un po' più bassi, bassi, sempre un poco più dei tuoi. Voltare, sei la donna del cowboy e niente più ti mancherà. Il cellulare, la mia foto in tribunale e la consegna quotidiana di una borsa con la spesa anche dopo il funerale. Lo so, sarà per te che salirò tutte le scale, mettendo a fuoco il centro commerciale. Ogni bancomat mi obbedirà. Scapperemo da soli noi due a bordo di un portavalori, e non importa se la gente inciampa o cade, se la gente griderà. Sensazione, è un'emozione, stringimi forte e stammi più vicino se casca il mondo. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Era un po' di tempo che non sentivo più il pezzo, però mi coinvolge sempre, soprattutto gli arrangiamenti. non complicati, complessi, possiamo dire questo. Possiamo aprire una parentesi, poi la chiudiamo, perché abbiamo parlato tanto di questo pezzo. Invitanti come arrangiamenti, non sono semplici, sembrano semplici, ma non è vero assolutamente. La fisarmonica fa un trade union a tutto, però, non solo la fisarmonica. No, direi, beh, il fatto che possa essere apparentemente semplice e invece studiato e complesso in, una seconda battuta, di una seconda analisi, è proprio quello che voleva, il risultato che volevamo ottenere. Esatto, esatto. È un pezzo che prende immediatamente, dico immediatamente, prende un po' di ascolti, ma subito, e poi quando ha preso, rimane, secondo me. E quello, quella è la caratteristica di questo disco, del Ladro di Rose, secondo me. Sì, sì, credo di sì, nel senso che il feedback che abbiamo avuto ci suggerisce proprio questa cosa qui, insomma, ci hanno scritto... chiaramente non grandissimi numeri, ma un po' da tutta Italia, hanno sentito questo pezzo magari alla radio, quando passava su Radio 1, certo. Colpendo, è un po' la nostra caratteristica, diciamo, quella di lavorare non tanto sul pubblico distratto che rimane colpito magari da un ritornello accattivante, ma che dopo qualche giorno non ricorda più, ma entrare così, molto così, insomma, con le pantofole nella vita delle persone, ecco, fargli compagnia e accompagnarli nel loro percorso. Adesso, Giorgio, facciamo sentire anche gli strumenti degli altri tuoi colleghi. Oui. Cosa suoniamo adesso? Adesso suoniamo un pezzo che si chiama Le rose d'ogni mese. Perfetto. Le rose d'ogni mese non perde mai il colore, non le perde mia l'odor. E mi per un bacin d'amore, non perdo mia l'onor. Come le rondinelle in aria con le aline, anche alle morettine che piace far l'amore. Se mio fratello lo sa che farà cambiar paese, ma le rose d'ogni mese le voglio per cantar. Parapapa vai, parapapa vai, vai, parapapa vai, parapapa vai, vai. Avevo 15 anni, ti ho dato la manina, par tre giosse derugiada, sui petali bagnai. Adesso che ne ho 20 e che non so regina, mi alzo la mattina, me tocca lavorar. Se a me non mi credete, entrate in casa mia, tre sedie sgangherate e un seccio tacconà. E l'affitto della casa l'è ancora da pagare, ma le rose d'ogni mese le voglio per cantar. Parapapa vai, parapapa vai, parapapa vai, parapapa vai. Parapapa vai, va vai, bo va, vai bo va, va bo va. Parapapa vai, bo vai, bo va. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Le due fisarmoniche hanno un certo feeling, danno un certo alone musicale, contribuiscono al vostro sound, vero Giorgio, vero Marco, vero Sergio e vero Antonio, e così, parliamo tutti quanti, dai. Antonio, il contrabbasso, dimmi qualcosa di questo strumento meraviglioso che hai portato stasera. Allora, che posso dirti? Uno strumento così si commenta da sé, direi. È fondamentale nel vostro suono. A parte però. Gli scherzi, direi di sì, nel senso che Siamo una band acustica e quindi ci vuole il contrabbasso, ci vuole un suono profondo con delle note che navigano. Bello, le note che navigano, bello questa definizione, sì, che hai dato. È uno strumento che ha una storia sia nella musica classica ma anche nella musica jazz, come sai. Certo. E quindi può essere adattato a varie situazioni. La cosa interessante è che appunto nell'ultimo disco, Lado di Rose, abbiamo cercato di utilizzarlo anche in contesti un po' diversi dal, sì, solito. Avete ascoltato La donna e il cowboy con questo basso in levare tipo dance music, esatto. Di solito si usa un basso elettrico, certo, un slappato, e invece abbiamo usato il contrabbasso con queste note appunto molto profonde. E a me il risultato è piaciuto, non so, tu cosa dici? No, sono perfettamente d'accordo con te. L'innovazione del pezzo che abbiamo citato un sacco di volte, ma è giusto citarlo ancora, è proprio questa, le sonorità nuove, costruite in una certa maniera, insomma, mi pare giusto che sia così, una evoluzione, come abbiamo ribadito prima. E anche quello, suonare il contrabbasso in una certa maniera, e questa è un'evoluzione rispetto al contrabbasso, al basso elettrico, come citato, come hai detto, slappato. Chi non è del giro, che vuol dire slappato praticamente? Cioè, un modo di suonare il basso elettrico tipicamente funky americano. Ecco, della soul music, sì, della dance music. Della dance music, e invece abbiamo fatto dance music suonando come se fosse una jazz music. È una jazz music, esattamente, esattamente. Ecco. Batteria, due fisarmoniche e la chitarra di Giorgio. Una davano, jazz folk, non so, davano un certo senso. Un'altra cosa che voglio chiedervi è questo: è l'origine di Radici. Come avete intitolato Radici? Io lo so perché me l'hanno spiegato a microfono spento, ma è giusto spiegarlo anche a microfono aperto, la gente deve capire il perché, che è un titolo un po' particolare, ma semplice, ma allo stesso tempo particolare. Beh, guarda, c'è un aneddoto che possiamo raccontare anche agli ascoltatori, e come tu notavi giustamente fuori onda, Radici echeggia il titolo di un disco di Francesco Guccini. Storico di Francesco Guccini. Gli anni 70. Esattamente. Però in realtà noi non abbiamo preso da quello, nel senso che le radici a cui allude il titolo del disco non sono le radici, ma sono i radici. Ecco. Cioè, che in Veneto sarebbe l'ortaggio, i radicchi. Sì. Naturalmente con un gioco così di parole che rimanda a entrambi i significati. E la cosa è nata perché quando stavamo progettando, insomma, il titolo per questo lavoro sul Veneto, eccetera, e eravamo in dopo aver mangiato e bevuto una sera in compagnia, insomma, ci interrogavamo quale potesse essere il titolo per questo lavoro. Ed è venuto fuori di tutto, insomma, ricordo che uno dei titoli proposti era Cemento Polenta, che ci piaceva perché... Sì, era un po' pesante. Era poco digeribile, sì, infatti. L'abbiamo scartato forse per quello. Però era bello perché così esprimeva un po' il passato del Veneto, ma anche il presente. So. L'abbiamo messo da parte, poi è venuto fuori Radicchio Meccanico. E quello era un bel pezzo, bel titolo secondo quello me. Era un bel titolo. Radicchio Meccanico se l'è giocata fino all'ultimo, insomma, con questo riferimento ad Arancia Meccanica. Poi così, ad un certo punto qualcuno, non ricordo chi, disse Radici. Nel senso appunto i radicchi. Esattamente. E ci guardammo con aria interrogativa, insomma, eravamo lì col caminetto acceso d'inverno, insomma, con un bicchiere di grappa stavamo fumando. E quello fa bene, vero? Per decidere un titolo di un disco. Sì, direi di sì, insomma. Il fumo no, però la grappa fa bene. Beh, senza esagerare. Senza esagerare. Non andiamo messaggi così, però... Poi giustamente progettando un disco sul Veneto, la grappa insomma, sì, aveva il suo ruolo. No? Certo. E quindi ci siamo guardati e a quella cena che stavamo facendo era presente anche Guido Stanel, che è uno dei due editori di Becco Giallo Editore, che è una casa editrice di Padova specializzata in fumetto, in graphic novel, un nostro caro amico. E lui ebbe proprio questa intuizione per la copertina, dice, potremmo mettere proprio un radicchio in copertina, lui naturalmente essendo il suo campo, la grafica, E da lì nacque Radici. Ha subito fotografato come fare e immediatamente... E alla fine ci ha convinto ed è uscito. Infatti la copertina raffigura proprio un, certo, un cespo, si dice, no, di radicchio. E giustamente il sottotitolo del disco è Canzoniere Veneto Contemporaneo, quindi... Sì, ci piaceva l'idea di, come dire, controbilanciare questo riferimento alla tradizione, sì, al passato, al dialetto. Insomma, non vogliamo rimanere invischiati in queste tematiche. Ci piaceva comunque l'idea di gettare il nostro sguardo sul presente in ogni caso. Certo, e ribadire il vagabondare fa anche quello pandan. Sì, sì, sì, sì. Decisamente. Sì, sì, sì. In controtendenza, dove nella nostra regione siamo sempre più cementificati, siamo sempre più nascosti dietro alte siepi che nascondono magari delle griglie, cancelli metallici e cani lupo, noi insomma cerchiamo un paese. Sì, abbiamo detto che avete scelto di mettere su in Radici 7 pezzi dal disco precedente, meno pezzi dai dischi prima. Avete detto che il disco precedente, l'ultimo, Ladro di Rose, era il disco più significativo della vostra produzione, ma è proprio questa la verità, cioè proprio questo il motivo dei 7 pezzi dentro nel disco? Sì, ci piaceva l'idea di, cercando un dialogo con un pubblico che non è il nostro pubblico consueto che ci segue, ma magari quello che entra in edicola e rimane così incuriosito dal titolo Canzoniere Veneto, ci piaceva l'idea di dare un po' il meglio alla nostra produzione, anche se in realtà abbiamo scelto dei brani, ad esempio la canzone In forma di fiore, certo, che abbiamo un po' ritoccato, rimasterizzato, e a cui noi teniamo molto perché esprimono dei concetti appunto che ci piace ribadire, che ci piaceva ribadire, ad esempio Picnic al Cavalcavia, che è insomma un'immagine che probabilmente è sotto gli occhi di molto, insomma si tratteggia un po' un weekend da immigrati, ecco, per così dire, oppure un nostro altro classico, Onda del Mar, questo, certo, altro vagabondaggio, questa volta per le calli di Venezia, vista una Venezia, diciamo, non turistica ma vista dal basso, oppure Lentiggini, ecco quello, sì, esattamente, un altro nostro brano di qualche anno fa, anch'esso contenuto originariamente in Canzoni in forma di fiore del 2004. E adesso è uscito Radici, tu hai detto che il disco, che il pezzo inedito, quello non l'avete ancora provato, e c'è un arrangiamento diverso, suonato in modo diverso rispetto al disco precedente, dal vivo l'ha portato a Radici, oppure Scusa, no, ti spiego, il Ladro di Rose l'avete suonato più di una volta, il nuovo disco Radici ha dei componenti dei componenti di dischi precedenti, c'è un arrangiamento differente rispetto ai dischi precedenti oppure no? Beh, le versioni dal vivo si cambiano, direi senz'altro di sì. Poi a noi piace giocare molto con i brani vecchi, quindi non so, ad esempio nella nostra versione dal vivo di Onda del Mar c'è una citazione di un vecchio brano di Charles Trenet, La Mer, ci piaceva. Quindi ci sono delle evoluzioni anche quando sono nato dal vivo, ci sono delle diversità. Sì, poi c'è spazio per l'improvvisazione. Ecco, è quello importante, questo per proprio arrivare a quello delle improvvisazioni. Sì, ad esempio in un altro brano, Lentigine, appunto, nella versione dal vivo, ultimamente abbiamo inserito una citazione di un brano di Astor Piazzolla, che naturalmente a noi, come amanti della fisarmonica, certo, diciamo, anche se Astor Piazzolla suonava uno strumento che si chiamava bandoneon, piace molto, e da un solo improvvisato di Sergio è nata l'idea di sviluppare questa citazione di Astor Piazzolla. Ecco, da un solo improvvisato di Sergio, allora come è venuto fuori questo discorso, Sergio? Ma è venuto fuori per caso, come succede sempre quando ci lasciamo un po' andare dal vivo, viene fuori 100 cose diverse, ogni tanto qualcuno ci convince di più e proviamo a formalizzarla, magari renderla proprio parte del brano. Ma di un concerto, di un pezzo, quando avete deciso di fare una improvvisazione diversa, di allargarlo, c'è un accordo vostro immediato oppure così? Ma ci sono dei momenti, dove noi sappiamo che può succedere delle cose. Ho capito. Quando succedono, magari cerchiamo di dargli lo spazio di cui hanno bisogno, ma è una cosa molto estemporanea. Ecco, adesso abbiamo spazio, ancora ci suona un altro pezzo dal vivo, cosa dite? Siete d'accordo? Beh, perché no? Guarda, allora, per onorare questo tuo invito agostano, esatto, non so se si dice così, ma insomma, noi abbiamo un pezzo che è contenuto in Radici, che si chiama Ferragosto nell'orto. Certo. Un brano che abbiamo così dedicato all'estate e alle cose belle in generale, e lo suoniamo con piacere, Ferragosto nell'orto. Benissimo. Fresca è l'acqua del tuo pozzo, nell'arsura, i questo mio agosto, mentre il tuo geranio rosso in mezzo alla verdura fa festa nel tuo orto. Meraviglia agli occhi miei le tue susine calde di sole che tu porti alla bocca sullo sfondo distanti vette alpine e tutta la voglia del cielo che le tocca con un raggio di miele. L'estate cola, è l'abito leggero e il tuo incedere di brezza che suggerisce un ritmo che il cuore mi accarezza, mi dà l'intonazione per un canto antico e bello che gonfierà la vela il mio battello. Vai, vai, vai. Gialli peperoni, viola melanzane, gentili le insalate di verde striate, bellezza un poco cruda che mi guardi oltre la rete, l'acqua del tuo pozzo non lo sai, fa venir sete. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, Antonio predispone e mette a posto il contrabbasso, che è uno strumento molto importante di un certo peso, ecco, assolutamente. Leggevo qua una recensione molto interessante, beh, l'avete detto voi sicuramente, l'isola che non c'era, quella famosa mensile che parla solo di musica italiana, ebbene, tra parentesi. Sì, che adesso... Sì, sono online solamente, sì. Sì, siamo... No, che adesso è diventato un sito, praticamente non esce più. Ah, non esce più, perfetto, cartaceo. Purtroppo. In ogni caso era molto bello, molto interessante. E leggevo una cosa sicuramente fondamentale, che vi fotografa esattamente, che è questa. E, naturalmente, questo della piccola bottega Baltazar è decisamente è cantautorato che in tempi moderni si contamizza con suoni moderni, fatto a volte di elettronica e sintetizzatori, cioè la modernità con la cosa non antica ma di un certo trend folk, praticamente. È una cosa giusta, secondo me, questa commistione, questa coesione tra suono vecchio, non vecchio, un suono di una certa cultura tradizionale e un suono nuovo. Ma sì, è... Tra l'altro è una cosa che noi riscontriamo anche in altri artisti che amiamo. Quali, per esempio? Ad esempio Sufjan Stevens, che è un cantautore americano che noi così abbiamo scoperto ed amato negli ultimi anni. E non a caso anche lui appartiene alla nostra generazione, certo. Quindi tra i 30 e i 40, insomma. E io presumo, anche se non ci ho mai parlato insieme, che provenga da quel mondo del cantautorato folk americano, per cui nomi storici, da Bob Dylan, la West Coast, Crosby, Stills, Nash, eccetera. Però all'interno delle sue canzoni e dei suoi arrangiamenti, tutti rigorosamente acustici, per quanto riguarda il suo album Illinois, che noi prediligiamo, sì. Contengono delle citazioni dei Cure, ad esempio, certo. No? Oppure un uso inconsueto degli strumenti acustici. Quindi è proprio un'esigenza che evidentemente... porta a noi che siamo una nuova generazione, anche se non siamo giovanissimi in realtà, però insomma come cantautori possiamo dirci giovanissimi, visto che l'età media dei cantautori è molto alta. Sì, di cercare la nostra strada, cioè uscire dalla casa dei nostri padri e fare il nostro percorso, sì, e a volte anche confutare le teorie e le tesi dei nostri predecessori. Sì, giusto, tu hai detto una cosa giusta. Lo sai che voleva fare un disco per ogni stato americano, poi si è fermato. È un po' troppo impegnativo. Aveva cominciato bene, però. È un tipo ambizioso. Sì, e cosa ne pensi di Bon Iver? Oddio, questo è un nome che è un nome che tradizionale, sì, però anche lui, un disco nuovo è uscito da qualche mese, già nelle classifiche dei primi 20 in America, abbastanza, però. È un personaggio indie, assolutamente, il primo disco l'ha registrato in una capanna vicino alla neve, praticamente, nella neve, in un bosco in America, e questo nuovo disco, sì, è tradizionale, però anche lui fa degli esperimenti nei pezzi. E questo è positivo, c'è un trend, secondo me, c'è un proseguimento. Eh sì, il tempo passa, diciamo, per cui il folk sì, però passa anche per il folk, grazie a Dio. Esattamente, di là, quando, si va avanti, di là quando aveva deciso di fare l'elettrico, gli hanno tirato i pomodori, però era solo il primo momento, poi è diventato genio. E c'è stato un cambiamento, c'è poco da fare. Sì, beh, ma è normale che sia così. Adesso, prima parlavamo di Piazzolla, ad esempio, che è un artista che noi amiamo, e c'è questo aneddoto, no, di lui che torna a Buenos Aires dopo una tournée mondiale, e lui era un po' il traditore del tango, no? Certo. Perché l'aveva portato in altre direzioni, contaminandolo col jazz, la musica contemporanea. E si dice che quando questo tassista che lo stava portando a casa dall'aeroporto si accorge che lui è Astor Piazzolla, lo fa scendere trattandolo in malo modo, abbandonandolo sul ciglio della strada, insomma, per cui a noi queste cose non capitano, e questo, tra l'altro, ci interroghiamo, diciamo, forse dobbiamo osare di più ancora. Però vedi, è in positivo anche quello, sì, l'ha abbandonato sul ciglio della strada, però vuol dire che ha fatto una cosa che ha sconvolto giustamente le regole tradizionali. Più che una contrapposizione tra vecchio e nuovo, direi che ci sono diversi strati che si accumulano, un po' come le rocce, no? La musica si stratifica mano a mano, e quindi ha diverse reminiscenze. Certo, certo, è vero, questa è una cosa giustissima. Benissimo, adesso a proposito di reminiscenze, facciamo sentire un pezzo da disco, così vi riposate un secondo. Che traccia, non so che traccia sia, Michele, la numero 5. Michele, okay, ok, perfetto. Allora, se adesso partirà A Foghi Spenti, che è un nostro brano storico, diciamo, perché è contenuto già nel nostro primo disco, che era un omaggio a Fabrizio De André, ma questa è tutta un'altra storia, ed è stato registrato dal vivo a settembre del 2010, quindi dell'anno scorso, al Centro Culturale Candiani. E che occasione, Giorgio? Era una rassegna di musica acustica. Perfetto. E tra l'altro contiene un cameo, una partecipazione di un bravo musicista attivo nel padovano, ma insomma lui è veronese di origine, Riccardo Marogna, che è il clarinettista dei Bube Supravie, che è un amico, oltre che un bravissimo musicista, che abbiamo invitato proprio a partecipare a questa nuova versione di A Foghi Spenti. Mostrami i tuoi mestieri, fammi vedere dove chise. Tira fuori i tuoi salvanei, che vorrei essere aria anche a me. Accompagnarmi col temporale e baruffare coi campane, a fin di aprì essere vento e basare i fiori di sotto e sottane. Vorrei essere la malombra quando chi torna dall'osteria, nebbia de notte attraverso campi, il canto del fiume in mezzo e via. Mi sconderia nei ragnatè, po' come un gatto te seguiria, perché mi piace star terente, pa' farte fusa e po' scampare via. Ma quando suona mezzanotte, mentre te dormi te spieria, che so curioso dei tuoi segreti, che so invidioso della tua magia. Come amare a ti te senti lune coi caende te cambia il sangue, come amare a ti te viete ve e mi son reito in bocca e alghe. Anche se mi gonvecio compare che go incontra il crocevia, che me gadai a mansanca e ogo sempre intorno non va più via. Di notte che è da aver paura, perché i raise più che se storte, più va profonda e drento a terra e più è ga scorsa dura. Ma quando sono a mezzanotte, mentre te dormi te spieria, che so curioso dei tuoi segreti, che so invidioso della tua magia. E se a luna se un fil de ferro i pai del steccato pare dentro, da baro casa per casa andrò a rimpissare i fuochi spenti. Suona a mezzanotte, mentre dormivo e spieria, so curioso dei vostri segreti, che so invidioso della vostra magia. E se a luna se un fil de ferro i pai del steccato pare dentro, col me da baro casa per casa andrò a rimpissare i fuochi spenti. Se tre strighe che fia lana non fa notte una busia, sto a candea che fa monana la notte zionca come una conta, che se tre strighe che fia lana Mario Moiere pare fior, sto a candea che fa monana. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo molto interessante. Parlavamo a microfono spento, una jam session finale. Jazz che si incrocia con il folk, possiamo dire anche del rock, anche duro in alcuni momenti, sì, pomposo, sì, tirato. Sì, energia. Beh, del resto, essendo una versione dal vivo, proprio ha catturato proprio questi aspetti, insomma, dell'energia live e unita allo spazio che ti offre l'esecuzione dal vivo, no? Cioè, a differenza dei dischi, dove comunque sei più vincolato magari a delle forme. E lì proprio suonando insieme contemporaneamente dal vivo è venuta fuori questa versione che a noi piace molto, in effetti. Bella, bella tirata. Devo chiedere una cosa, c'era qualche ospite in quel momento assieme a voi sul palco? Beh, questa è una versione dal vivo con appunto Riccardo Marogna, sì, che abbiamo già... Rinetto Basso. E dopo qualche altro? No, in realtà no, eravamo noi. Ah, perfetto, perfetto. Eravamo noi con lui, insomma. È stata... hai avuto un notevole successo col pubblico, dicevi, un pezzo che sempre attira le simpatie del pubblico. Sì, guarda, è un pezzo che noi suoniamo proprio dagli inizi della nostra carriera, da 10 anni, e che continuiamo a proporre perché è sempre molto applaudito dal vivo e il pubblico lo ama molto, lo vuole sentire, ce lo chiede. E ha un'energia particolare, è andato probabilmente a toccare delle corde anche al di là delle nostre stesse aspettative o intenzioni, e è un po', diciamo, sì, il nostro brano del cuore, insomma. Qua in questo pezzo c'è stata un'apoteosi, ma di solito lo suonate meno grintoso, oppure sempre a stesso livello? No, è proprio la sua natura, sì, ha questa parte iniziale molto ninna nanna, e poi... che però poi sfocia in questa danza molto concitata. Un free, assolutamente un free, lo possiamo dire. Assolutamente quasi. Forse no, però c'è sulla buona strada. C'è spazio per l'improvvisazione, anche per suoni così lancinanti del clarinetto in questo caso. Bravo musicista questo qua, sì, decisamente. Sì. Non abbiamo il clarinetto stasera, ma possiamo suonare lo stesso. Altri strumenti sono già pronti. Cosa, Giorgio? Direi che potremmo suonare una canzone, è proprio la canzone che apre Radici, è la prima traccia di Radici, che adesso eseguiamo però dal vivo, si intitola La campana de Bassan, e racconta una storia, come mi trovo spesso dal vivo a dire, insomma, a modo di presentazione, perché è ispirata a degli eventi storici della Seconda Guerra Mondiale, quindi ormai lontani nel tempo, che però a noi piace ricordare, perché ricorda l'episodio del settembre del 44, l'eccidio dei partigiani, no? Catturati sulle montagne di Asiago, dell'altopiano di Asiago e del Monte Grappa, e così abbiamo scritto questa canzone come post-it, come memoria. Però in realtà in senso lato parla della guerra, vista però dagli occhi di un bambino. La campana de Bassan. A tramontana, soffia, e tanti anni fa, senza divisa passava un soldato. Sotto il ponte vien quasi sera, se lo ciapa la banda nera, con la morte che roba la gente, volta la carta che seppi niente. Addio le cose bionde, le se tutte vagabonde, addio le cose more, le se tutte traditore, la campana de Bassan la suonerà domani. Con un groppo stretto in goa, coi scarponi a picoion, bianco de sangue, rosso de vino, cosa pensi o il soldatino? Cosa pensa il soldatino? Addio le tose bionde, le se tutte vagabonde, addio le tose more, e a tutto questo amore così raro e ingannatore. Vai a puteo. Tu cavallo, andaremo fino a Malo, andaremo fino a Schio, poi torneremo in Drio, coparemo tutti quanti, sciopo davanti, sangue per terra, sangue per ma, pim, pum, pam. Addio le tose bionde, le se tutte vagabonde, addio le tose more. Addio alle belle putte e ai fieri delle suche. E dorme il soldatin in braccio alla sua mamma, che pian pianeo lo chiama e la campana de Bassan. E la sente in alti piani. Sono le 23 e 3 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Sì, stiamo piacevolmente conversando con la piccola bottega Baltazar. Abbiamo sentito un pezzo molto bello, con molto pathos. C'è poco da fare. È una melodia accattivante che ti prende immediatamente, però ha un testo di un certo peso, questo è importante secondo me. E adesso siamo arrivati alla solita ora, non so se vi ricordate degli anni scorsi, delle precedenti edizioni, c'è il giochetto dei dischi da portare sull'isola deserta. È passato un anno e mezzo dalla presentazione di Lato di Rose, però i dischi possono essere anche cambiati, sì, no? Direi di sì. Quindi abbiamo possibilità di estrapolare, di andare verso altri mondi con altri dischi diversi, o gli stessi i dischi, vedete voi, per me è la stessa cosa. Parliamo allora di questi dischi da portare su un'isola deserta. Chi comincia nella ruota? Allora, vabbè, vagomi. Vai in te. Nel senso che mi è venuto subito in mente un disco che ho amato molto nell'ultimo periodo, che è il primo dei Fleet Foxes. Adesso ci fermiamo un secondo. Hai fatto una cosa molto bella, hai citato Fleet Foxes. Sì, che è un altro esempio di quello della nuova leva, diciamo, del folk. Esattamente. Un prodotto, un disco americano. Molto bello, secondo me. Il secondo, che ne pensi, Giorgio? Devo ancora ascoltarlo attentamente. Ho sentito alcuni brani che mi sono piaciuti, però voglio ascoltarlo proprio dall'inizio alla fine più volte per potermi esprimere. Qualcuno in senso positivo ha detto, ecco, sono ritornati Crosby, Stills, Nash & Young. Tu che ne pensi di questa affermazione? Dico che... No, non è d'accordo, Sergio, non è d'accordo. Beh, ne parliamo, poi tu quando toccherà a te, vai. Ah, ok, no, dico che, vabbè, senz'altro sì, nel senso, come noi, piccola bottega Baltazar, con tutta l'umiltà del caso, nel nostro piccolo, possiamo ritenerci nani sulle spalle di giganti, e questi giganti sono i grandi cantautori, sì, del passato. Sono d'accordo. E anche i Fleet Foxes probabilmente risentono, insomma, della tradizione West Coast. Sì, l'impasto più che altro. Sì, l'uso delle voci, magari Crosby, Stills, Nash, gli Eagles o addirittura i Beach Boys in certi episodi. Però direi che è un'altra storia, cioè è qualcosa che va post, ecco, non è la semplice riproposizione di cose già sentite. Sono d'accordo con te, però io mi sono innamorato di Fleet Foxes anche per questo, scusate, ma io ho una certa età, sono legato a quei momenti. Cioè, a proposito di momenti, io so che David Crosby il 29 ottobre sarà a Padova con Graham Nash, quindi... Infatti io sono indeciso se andare... O non andare. I biglietti non ce ne sono più. Ah, ecco, così mi hanno tolto. Sono esauriti. Gli ultimi li abbiamo presi noi. Che io sono legato, insomma, a certe immagini del passato, certo. Ho paura che vederli adesso magari mi rovinerebbe un po'. Però abbiamo avuto delle brutte esperienze ultimamente, vedendo degli artisti dal vivo che stimavamo molto. Non so se forse è il caso di fare dei nomi, ma... Puoi delinearlo forse se vuoi. Sì, diciamo che... Vabbè, vabbè, avevo capito. Le iniziali sono A e B. È un tipo cappellone che per me è stato un mito e l'abbiamo visto recentemente dal vivo. Insomma, c'è parso piuttosto appannato, per cui a volte è meglio ricordarseli per quello che hanno fatto, certo, negli anni d'oro, insomma. E vabbè, chiusa parentesi con Fleet Foxes. Il secondo, Giorgio? Il secondo disco, farei un grosso passo indietro e citerei il disco in italiano di Chico Buarque del 69, credo, sì, il primo dei due che lui fece. Sono molto belli tutti e due, però il primo è proprio una sequenza di brani bellissimi uno dietro l'altro, storie brevi, canzoni molto accattivanti ma di grande contenuto. E tra l'altro noi dal vivo eseguiamo quasi sempre La Banda, uno dei brani Chico Buarque, un classico esattamente, proprio preso da quel disco lì. La produzione di Bardotti, ti ricordi? Sì, lui era dentro tutte le traduzioni dal brasiliano, portava sempre i musicisti brasiliani. C'è stata una collaborazione spesso con Endrigo altre cose. È anche un altro grande, anche lui che c'entra un po' con il nostro percorso. Certo, quindi il terzo disco, Giorgio? Oddio, pensavo fossero solo due. Sono pochi. Oddio, mi sono dimenticato che c'era il terzo. Allora, il terzo disco... Vabbè, si rischia di finire nei cliché personali, insomma. Vabbè, perché no? Direi Pink Moon di Nick Drake, insomma. Che è lo stesso che ho detto forse anche l'altra volta. Ma è giusto, anche se tu l'hai detto all'epoca, cioè quando sei venuto qua per l'ultimo disco, perché... Pink Moon e basta. Sì, era perché mi sento investito come di una responsabilità, no? Cioè che comunque con questa come se fossero dei suggerimenti agli ascoltatori, certo, per cui volevo magari dire un nome nuovo, però insomma lì non si sbaglia mai. No, assolutamente. Antonio, tocca a te. Allora, io ho fatto io da giro, mi sono sbagliato, va bene. Se nell'isola deserta è possibile, oltre ad ascoltare i CD, anche vedere i DVD, allora porterei il DVD di un concerto, di un live dei Sigur Rós al Museum of Modern Art di New York. Di quanto tempo fa, Antonio? 2008, dovrebbe essere. Quindi abbastanza recente. Insomma. Che ho rivisto recentemente e che è veramente strepitoso. Lo consiglio a tutti, se riuscite a recuperare il DVD di questo concerto, che è stato trasmesso anni fa da Current, la TV che adesso tra l'altro è stata soppressa proditoriamente da Sky, veramente ve lo consiglio perché è un grande live. E come mai hai scelto un gruppo un po' particolare? Adesso qualcuno dice si è un po' commercializzato, tra virgolette. Ma sì, senz'altro un gruppo particolare, ma a me dà delle emozioni. E in particolare ha avuto anche questo gruppo un'evoluzione, è partito da una forma di minimalismo, sì, assoluto, che forse era ancora da sviluppare, certo. E poi però ha dato vita ad alcune canzoni che secondo me sono veramente strepitose. Poi questo live è suonato benissimo, con a un certo punto interviene una band una marching band di fiati. E poi c'è un quartetto d'archi femminile, quindi poi l'ambientazione è particolare, certo, perché insomma dentro uno dei musei più importanti per l'arte moderna, con alle spalle la statua di Rodin di Balzac, e quindi insomma un insieme di cose che secondo me rendono veramente consigliabile la visione. E l'ascolto di questo DVD. E questo è uno. Gli altri due, porterei un disco di musica classica, lo porterei. Certo. E tra questi un'opera, una suite orchestrale che non mi stanco mai di ascoltare, è la saga della primavera di Stravinsky, che è stata una pietra miliare, un punto di svolta della musica in senso lato mondiale. Certo. E poi porterei anche un disco di jazz, perché no? Là non c'è l'imbarazzo della scelta. Forse quello più rappresentativo può essere Kind of Blue di Miles Davis. Miles Davis entra sempre rappresentativo. Certamente. Esatto, bene. Tocca a te, Sergio. Sì, allora vediamo. Io, facciamo per ultimo Marco quest'anno. Okay. L'anno scorso era il contrario, mi pare. Non lo so. Dimmi. Io ho visto di recente un video di Radiohead, che è proprio un concerto, un live, che si chiama Basement Tapes, sì. Nuovo però, ne avevano fatto uno qualche anno fa, secondo me è proprio... E cosa ne pensi dell'ultimo disco che hanno fatto? Ha avuto dei pareri discordi, chi lo ama moltissimo, chi non lo ama per niente, c'è un grande pezzo, questo sì, gli altri un po' meno grandi, a mio parere, sempre a mio parere. Guarda, ti dico la verità che io non l'ho nemmeno ascoltato. Poi non sono neanche un fanatico di Radiohead, ho molti amici che sono proprio... Cioè, ogni disco che esce lo prendono praticamente. Io onestamente no, però hanno delle cose che secondo me sono uniche, cioè hanno di fare delle cose nell'ambito della canzone che è straordinario. Thom Yorke è uno che sa scrivere molto bene e anche sa arrangiare, sa creare, sa trasformare. No, quel live lì è veramente spettacolare. Bene, bellissimo. Poi secondo? Poi io adesso sto ascoltando un doppio CD di Olli Mustonen, che è un pianista finlandese che fa... Preludi e fughe di Shostakovich e di Bach. Ah. Bellissimi. Bene. Bastano per una vita, anche sull'isola deserta, non t'annoi mai. E poi ho la colonna sonora di Tremé, che è un telefilm su New Orleans. Sempre... È un telefilm che parla della vita dei musicisti a New Orleans dopo dell'uragano. Ah, ho capito. Prima, e c'è della musica favolosa, bellissima. Benissimo, tocca a te Marco adesso. Sì, come al solito non ti faccio molto contento perché non sono molto rock, però devo dire che come Antonio sono nel periodo islandese, cioè bene. Sigur Rós, Björk e Ólafur Arnalds. È quello un po' difficile per pronunciare, me l'hai pronunciato bene. e sto ascoltando praticamente, cioè, e tra l'altro mi sono accorto anche con mio dispiacere che purtroppo non ascolto praticamente più dischi, ma prendo intere liste di pezzi e li metto su in shuffle sull'iPod, cioè a caso, e quindi poi non so neanche riconoscere la sequenza, il che è una perdita, lo riconosco. Però se è il periodo islandese, questo è importante. Sì. E poi a fianco a questo, anche questo poco rock, sto ascoltando Satie tantissimo, vabbè, le Gymnopédies e poi anche altri pezzi meno conosciuti che mi piacciono sempre molto, e vediamo un po' come ne ho già detti quattro, no? Sì, esattamente. sono già oltre il limite, presunta scaletta. Beh, visto che non abbiamo tra l'altro citato nessun disco in italiano, certo, e per cui se nello zaino all'ultimo momento ci aggiungiamo anche del nostro tempo perduto di Perturbazione. Ah, bello questo, non è dunque, sono 5 anni che facciamo Rock Week, quasi 6. E non, forse è la seconda volta che vengono citati di Perturbazione e io sono molto contento, un gruppo, non dico non conosciutissimo, a torto, un gruppo veramente interessante, anche se ha fatto delle cose un po' troppo difficili in alcuni momenti, guarda, un po' complicate. Non conosco benissimo il loro percorso, ho ascoltato le canzoni del loro ultimo disco, che appunto è questo qui, certo, che ho citato, del nostro tempo perduto, e mi piacciono molto. Tra l'altro abbiamo avuto modo di conoscerli pochi mesi fa, sì, a Milano, in una serata. Bene. E c'erano anche loro, e abbiamo scambiato quattro chiacchiere, ci siamo sentiti molto affini, prima ancora che musicalmente, proprio come, non so come dirti, come modo di fare, certo, come persone. Idea, certo. E abbiamo fatto quattro chiacchiere insieme e sì, bravi. Bravi, sì, possono. E le ultime canzoni non sono per niente difficili, no, complicate, molto, molto dense di significato, sì, ma anche molto godibili, ecco. Loro avevano avuto un grande successo, cioè, che li aveva leggermente tirati fuori dall'anonimato, si chiamava Agosto, non so se lo conoscete. No. Tanto è stato rimissato più di una volta, aveva un certo sviluppo, si sono mossi, ma sono un po' più indie, hanno portato sempre avanti un discorso di autoproduzione in determinate cose, sempre ferre nella loro idea di portare avanti, tipo i Diaframma. Sono tutta un'altra cosa, Fiumani ha sempre fatto altre cose, però anche lui aveva quel discorso assolutamente autoprodotto, le e sempre avanti dell'indie. Esattamente, sempre avanti per la propria strada, al di là di ogni grida o di ogni percorso diverso. Fiumani era così, è sempre stato così, indubbiamente. Ok, sono le 23:16, adesso proporrei un pezzo da disco, così vi riposate un secondo. Che traccia è, Michele, lo sai? La traccia numero 8, perfetto. E adesso lo sentiamo e poi ne parliamo, ok? Ottimo. Thank you. dietro a quella brezza. Tutta sola e le tue lentiggini. Hai l'aria stanca, stanca fin la sottana. E la sapienza d'un liquore verde, amaro. E in fondo hai solo pochi anni. E piace ai miei nervi slegati. E i tuoi visi dopo gli affanni ricordano momenti delicati. Fan perfin ridere i tuoi gesti e il tuo viso ne rintraccia i pochi resti. Che ci fai con le lentiggini appannate sotto vesti strucite da olocausti passati? E in fondo hai solo pochi anni e piace ai miei nervi slegati. E i tuoi visi dopo gli affanni ricordan momenti delicati. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, dobbiamo fare un piccolo saluto alla Nicoletta, alla Patrizia e alla Silvia, che sono le fan rock, rock in tutti i sensi, che ci seguono sempre, e il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che segue la programmazione della fascia nostra. Parliamo di questo pezzo, Giorgio. Lentiggini, che abbiamo appena sentito. E, beh, era quello che dicevamo prima, sì. No? Il pezzo remixato, esatto. Quindi con... remixato bene, bisogna dirlo. Sì. Tango... qualche amico ci ha detto: ah, avete fatto un pezzo di tango nuovo, no? Perché riecheggia un po' questa tendenza degli immigrati argentini a Parigi, su tutti i Gotham Project, eccetera. Eh sì, è una canzone che... sì, abbiamo voluto provare a riproporre in questo vestito così alternativo, tra l'altro con la partecipazione di Donata Marin, che è una cantante padovana che ha dato il suo apporto non da poco. Sì. Decisamente. E sì. L'idea è nata prima a Kito di fare questo remix, o era un'idea che avevate già da tempo? Cioè? No, questa è un'idea che dura veramente da tanti anni, nel senso che l'origine di questo remix è datato 2005. Ah, a una certa età, insomma, sì, praticamente. Sì, sì. Però era uscito solo a livello come singolo radiofonico, per cui ci abbiamo rimesso un po' le mani, e siccome non era ancora mai stato pubblicato, e a molti dei nostri ascoltatori, insomma, dei nostri amici piaceva, allora abbiamo deciso di inserirla. Bene, tecnicamente, se uno vuole acquistare Radici, come fa? Scrive all'Azzurra. Allora, essendo un progetto che è stato distribuito esclusivamente nelle edicole, ormai non si trova più perché è esaurito, e nei negozi non si troverà, si può scaricare in formato digitale, oppure richiederlo direttamente all'etichetta discografica Azzurra Music, oppure venire a uno dei nostri concerti dove noi proponiamo. La cosa migliore quella. sì, nel senso che poi a noi fa piacere, così abbiamo ancora più pubblico che possa venire ai nostri concerti. A proposito di concerti, c'è qualche altro progetto? Sì, adesso avete quasi terminato la tournée, o quasi l'avete terminata praticamente. Ci sarà settembre, ottobre, qualche data più avanti? Sì, a settembre riprendiamo. E con diversi concerti che sono già presenti nel nostro sito, dove c'è l'agenda di tutti i nostri appuntamenti, per cui se qualcuno è incuriosito e vuole vederci dal vivo può andare al sito www.piccolabottegabaltazar.it e lì ci sono tutte le date. Nei prossimi giorni abbiamo ancora un paio di serate, sì, suoneremo a Carpanè di San Nazario in Val Sugana. Sì, esatto. Venerdì sera. Una festa in piazza? È una serata diciamo organizzata dal circuito Opera Estate Festival. Certo, capito. Per cui saremo in questa piazzetta molto suggestiva, ci hanno detto. E poi invece domenica sera saremo a Erbezzo, in provincia di Verona. Ah, bene. Quindi bene, molto interessante. Una cosa che vi devo chiedere è questo: avevate parlato di pezzi che l'avete lasciato nel cassetto, ci sono tanti altri pezzi lasciati nel cassetto pronti per un album futuribile già, oppure no? Radici è un caso a parte, fa parte della discografia, sì, però è un caso a parte. Sì, sì, sì. Beh, adesso passata l'estate cominceremo a lavorare al nuovo progetto discografico, quindi abbiamo canzoni. Molte che abbiamo scritto magari in questi ultimi tempi e che riprenderemo in mano. Per il momento non abbiamo ancora notizie, diciamo, precise. Una linea vera e propria. No, vedremo cosa scriveremo di nuovo, cosa prenderemo magari da cose scritte in passato che non hanno trovato spazio nel disco precedente. Ma questa spinta che vi ha dato l'ultimo disco che avete fatto, non la raccolta, non la dice il precedente, continuerà nei progetti? Questo si allargherà il discorso di cercare di sperimentare? Penso di sì. Beh, io credo di sì, nel senso, come un bambino che smette di balbettare e inizia a parlare, esprimere concetti via via sempre più, speriamo, interessanti e complessi nel senso positivo del termine, sì, continuiamo senz'altro. Benissimo, continuiamo anche a suonare cose allora adesso. Direi che a questo punto potremmo far sentire un brano che doveva essere contenuto in Radici. In Radici, che poi per motivi diversi non è andato. Che non abbiamo potuto mettere perché è una traduzione dal francese di un vecchio brano di Georges Brassens, questo cantautore francese degli anni 50-60. Certo. E non abbiamo avuto in tempo la liberatoria dell'Universal, per cui non abbiamo potuto inserirla. Però ci sarebbe stata bene dentro Radici, e si intitola Marinette, ma noi ne abbiamo fatto una versione in dialetto veneto, diciamo, che si intitola La Marietta. Oh, onda a cantare a me canzon, alla Marietta e a Bea, traduttrice, ieri andà all'opera. E mico a me canzon mi sentivo proprio mona, e mico a me canzon un mona sostà. Son da portare a marmellata la Marietta e a Bea, traditrice, e a Gaveva Zamagna. E mi col me vasetto parevo proprio mona, e mi col me vasetto mona sostà. Co che gorrega e Anna bicicletta la Marietta e a Bea, traditrice, una gran moto che accrompa. E mi col metriciclo parevo proprio mona, e mi col metriciclo mona sostà. Che son da al rendezvous con la Marietta e a Bea, traditrice, limonava con Lillon. Col me bouquet de fiori parevo proprio mona, col me bouquet de fiori mona sostà. Quando ho deciso de copare la Marietta e a Bea, era morta e stecchia sa da un fiap. E mico a me pistoia me sentivo proprio mona, e mico a me pistoia mona sostà. Così soccorso in cesa al funerale della Marietta, ma Bea, traditrice, iera sa resuscita. E mico a me corona parevo proprio mona, e mico a me corona mona sostà. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, pensando a questo pezzo, che era molto Dixieland, secondo me, molto pieno di swing, è una cosa molto positiva. Un divertissement. È un divertissement, breve ma significativo. Marco, chiedo a te, che difficoltà avete avuto dal francese a trasportarlo nel Veneto, che non è una cosa semplice, assolutamente. Sai, in realtà abbiamo prima tentato di tradurlo in italiano, perché la canzone ci piaceva molto, questa figura. Però poi questa figura che emergeva, piano piano ci ha fatto pensare che coincideva con la figura del Mona, e allora in italiano Mona era difficile. Certo, scemo, stupido, non ha la stessa accezione. Di conseguenza abbiamo optato per il dialetto veneto, e così abbiamo cercato di trasporre le figure francesi e ambientarle nel Veneto, e pare che questa cosa venga riconosciuta dal pubblico, insomma il pubblico si diverte, quindi risulta credibile perlomeno. È positivo anche il discorso dello swing, questo contorno musicale che avete creato, che avete sviluppato. L'idea come è partita da te, Antonio? No, beh, in realtà anche l'originale è così, insomma, però, è swingato. Sì. E quindi abbiamo fatto altro che sviluppare, accentuare il discorso, e sviluppato quel discorso. Ci abbiamo inserito anche un inserto con un'improvvisazione che fa Sergio, e che peraltro ci stava dentro perfettamente. C'è ancora Brassens sulla vostra strada o no? Musicalmente parlando, cioè come traduttore, eccetera, qualche altro pezzo, se vuoi. Beh, forse. Oddio, c'è sempre nell'aria prima o poi l'idea di fare di sviluppare un progetto di traduzioni, magari non solo di cantautori del passato come può essere Brassens, ma anche magari di altri artisti anche del presente. Insomma, ogni tanto salta fuori l'idea che si potrebbe tradurre qualcosa di Nick Cave. Un'altra cosa molto difficile o molto facile, dipende dai punti di vista. Diciamo che ci sono alcune cose delle sue Mulder Ballads. Ecco, mi sei fermato al disco più bello secondo me che lui ha scritto. Sì, che diciamo che si possono prestare ad essere tradotte in salsa veneta, nel senso che una certa ambientazione di un Veneto noir quello, non so, ad esempio dei romanzi di Massimo Carlotto, certo, però certo, in una declinazione più tra virgolette campagnola, io credo che potrebbe starci. E io mi prenoto subito se avete questa idea, perché io amo particolarmente Mauro Balax, secondo me, ripeto, è uno dei suoi più bei dischi, molto particolare. Qualcuno dice no, è un'altra cosa con la band. Si può darsi che sia un'altra cosa con la band, però quando ha fatto questo pezzo qua, questo disco qua, l'ho sentito anche recentemente, non perde di valore. No, direi di no. Poi tra l'altro anche a livello di band ci danno dentro, sì, suonano, no? E, diciamo che è un disco che ha colpito un po' la nostra anima folk, nel senso che lui ha fatto proprio questo lavoro di recupero, no, delle storie di ballate popolari, cioè, certo, ballate, no? Popolari, le famose Murder Ballads, esatto, appunto, che insomma c'entra un po' con, se non con il nostro percorso, con i nostri gusti. Ma l'ha rivisto in chiave molto decadente, secondo me. Beh, giustamente. Per niente, insomma. Noir, ma proprio noir pesante, sì, fatto, sì, da lui. Sì. Beh, lui è un genio, a mio parere, certe cose. E gli ultimi progetti, molto rock, molto duro, li hai sentiti? Ho sentito, non so se è l'ultimo disco che ho sentito, il doppio. La lira di Orfeo, tradotto in italiano, per restare in tema, e non so se è l'ultimo suo, quello l'ho ascoltato e mi è piaciuto. E tra l'altro, vabbè, insomma, così, visto che siamo qui a far filò, come si dice una volta, a conversare amorevolmente, ho apprezzato tantissimo, vedendo l'ultimo film di Harry Potter insieme a mia figlia, la prima parte, c'è una scena in cui c'è proprio una canzone di Nick Cave, che io non mi aspettavo assolutamente, che aggiunge a questa scena, che dura pochi minuti, dura un paio di minuti, un pathos grandissimo. Io proprio, per me, di tutta la saga che ho visto, che ho seguito, è proprio il momento che mi è piaciuto di più. Questa è una cosa positiva, non so se siete d'accordo. Dimmi. No, volevo solo portare una testimonianza. Per quanto riguarda Nick Cave. Sì, vai. Nel 1982 ero a Londra. Sì. E mi aggiravo per locali cercando di vedere un po' meglio la musica. Figurati, nell'82 c'era un fermento pazzesco, certo, new wave, punk. E una sera sono andato a vedere i Birthday Party, che, come sai, era il gruppo di Nick Cave, che era un gruppo durissimo, esattamente, una cosa incredibile. E mi ricordo che aspettavo di entrare, e a un certo punto è arrivato sto individuo pazzesco con una bottiglia di gin in mano, e lui era Nick Cave, grande Nick Cave. Poi non ti dico, sì, il concerto, l'esibizione è veramente pazzesca. Addirittura sul palco accendevano vampate di fuoco, cioè, non dico altro. In barba all'enorme antincendio. Esattamente. Sì. Ma quell'epoca era così, cioè, quell'epoca era quel suono là, anche se era un po' fuori del punk, però era potente al massimo, distruttivo, e poi è cambiato, vedi? È leggermente mutato. Poi per lui ha fatto tante cose, praticamente. È molto bravo, c'è poco da fare, molto molto interessante. Ok, 23 e 34, non so se abbiamo un altro pezzo da disco, non sai che non lo so. Allora, non l'avevamo progettato, per cui dobbiamo andare un po' a memoria e suggerire a Michele quale la traccia si può fare. Allora, beh, visto che, che stiamo parlando di... abbiamo accennato ad un Veneto scuro, sì, no? Guarda, sì. Noi abbiamo una canzone che è la quarta traccia del disco. Sì. Spero di ricordare bene. Bene. Che si intitola L'ombra del Caliburo. Mm. Visto che abbiamo tempo, possiamo anche spendere, certo, due parole. No? Beh, volentieri. No, questa è una canzone che abbiamo scritto dopo un'esperienza che abbiamo avuto. Qualche anno fa abbiamo partecipato a un film documentario di Andrea Segre, un regista che è romano, ma padovano, insomma, di nascita, che ha girato questo film documentario su un piccolo paesino della provincia di Vicenza, sì, vicino a Rosà, che si chiama San Pietro di Rosà, dove all'epoca stavano per costruire un enorme impianto, diciamo, industriale, una delle più grandi zincherie d'Italia, insomma. E questi cittadini di questa piccola frazione, poche centinaia di persone, si opposero a questa costruzione e scoprirono che erano stati perpetrati degli abusi per realizzare quest'opera. Insomma, pare che l'edificio sorgesse su un terreno archeologico e che con abili cambi al piano regolatore fosse, avessero cambiato la destinazione d'uso del terreno, che probabilmente durante la notte camion scaricassero materiale, diciamo, nocivo sul fondo, no, del... tutte cose che purtroppo non sono state appurate in sede legale per, loro dicono, una serie di insabbiamenti, insomma, e sta di fatto che questa esperienza testimoniata appunto da questo film che si chiama La Malombra e che è stato presentato tra l'altro al Torino Film Festival qualche anno fa, e vincendo anche un premio, non ricordo, il premio Avanti, insomma. E niente, confrontandoci con questo, con questa realtà dove abbiamo visto come gli interessi economici siano più forti di qualsiasi altra motivazione ambientale, culturale, sociale, insomma, ci ha ispirato questo brano che si intitola L'ombra del Caliburo. Perfetto. Un giorno un grand'uomo ebbe un'idea, fece una buca di 16 metri, scavo profondo tra un melo ed un pero, piantando nel mezzo un bel caliburo. L'opera stramba era fatta di strati, zinco, carbone e legni pregiati, unico dubbio della modernità, l'ombra allungava 3 metri più in là. Tanto per i campi di grano o quell'odore che sapeva di guano, ad alcuni venne un attacco di bile quando poi l'ombra coprì il campanile. Il prete disse: lasciate che sia, ne parleremo in sacrestia, ne parleremo magari domani, e l'ombra coprì anche i suoi parrocchiani. Giorni il buio allungò, si prese il fiume, le case, i rondò, ed il sindaco disse: che problemi ci sono, magari fra un anno faremo un contorno. Un vecchio disse con nostalgia: ne ho viste tante in vita mia, arrivi pure in fondo alla via, senz'altro farà un poco di compagnia. Certo che l'ombra non può andare lontano, ma quella avanzava nel giro di un mese, la sagoma scura si prese il paese. E ancora qualcuno ha strane pretese, vorrebbe vedere la luce del sole, ma gode, si sa, mala reputazione, chi non si abitua alla rassegnazione. Yeah. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, abbiamo dimenticato di dire una cosa. Non abbiamo dimenticato, volutamente la diciamo adesso sta roba. Che è importante, la colonna sonora di questo film l'avete scritta voi. Sì, sì, sì, La Malombra, questo film di cui parlavamo prima, che appunto testimonia le vicende di questo paesino in provincia di Vicenza, e l'abbiamo fatta noi. Che difficoltà c'è a fare una colonna sonora di un film? Si fa praticamente, c'è l'idea, come viene portata avanti? Diciamo che è una bella domanda purtroppo e per fortuna non esiste uno schema di lavorazione ben preciso, nel senso che ogni regista segue degli schemi suoi. E quello che abbiamo fatto con questo lavoro era stato lavorare proprio a stretto gomito con il regista e la montatrice del film stesso, per cui le scene man mano che prendevano forma come dire, necessitavano di lavori anche sulla musica, per cui certe scene venivano montate su una musica, altre invece ci venivano fornite già montate, noi dovevamo costruire la musica sopra, per cui è proprio un lavoro di cesello, un lavoro molto artigianale, direi. Ho capito. Molto diverso dallo scrivere canzoni, è molto bello peraltro. Io avevo sempre l'idea che prima si facesse il film, poi il soundtrack veniva fatto dopo, quando il film era già pronto. Sì, dipende. La leggenda narra di Sergio Leone, che invece girava proprio e mentre giravano c'era già la musica di Morricone, e gli attori che inscenavano il duello avevano in sottofondo la musica. E altre volte invece capita esattamente il contrario, come dicevi tu. Sì, molto vario. Mi viene in mente un'altra cosa. Non so, hanno fatto anche Marlene Kunzo tempo fa. Hanno ripreso i film muti e loro sotto nel palco suonavano, è una cosa molto interessante che si usava ai primi anni 20 praticamente. Cosa ne pensate di questo approccio musicale? Beh, Sergio ad esempio ha partecipato proprio a un progetto di questo tipo. Sergio, anni fa. Dimmi qualcosa di questo progetto. Anni fa ho suonato con una piccola orchestrina di sarà una decina di elementi, e noi musicavamo Hanno sferato di Murnau. Ecco. Erano delle musiche molto belle scritte da Alberto Polese, non so se lo conosci, è un compositore argentino che vive qui a Padova. È bellissimo in realtà suonare dal vivo con l'orchestra poi è un'occasione bella, perché questi film, specialmente questi film d'epoca muti, ti danno degli spazi, anche delle suggestioni bellissime, che poi non hai il problema dei dialoghi in cui ti devi incastrare, quindi puoi elaborare questi temi molto lunghi, molto molto belli. È una roba che sarebbe bello anche che facessimo. Sì, a proposito di questo mi viene in mente sempre, io avevo citato i Marlene Kunz, e mesi fa ho intervistato Yo-Yo Mundi per un loro disco, e loro si erano specializzati. Esattamente. Eisenstein. Erano specializzati in questo e sono stati chiamati in numerosi festival, in Francia più di una volta. Ho trovato un modo come un altro per sviluppare determinate tematiche, ma fatte bene decisamente. No, poi ti permette ad esempio di fare questi magari strumentali molto lunghi, che magari una canzone non riesce a fare. Esattamente. Qui, bello. Bene, sono i 23:44, abbiamo circa un quarto d'ora per poter proporre ancora qualcosa della bottega. Cosa della bottega? Guarda, ne approfittiamo per invitare tutti gli ascoltatori a questo concerto spettacolo che facciamo dopodomani, venerdì sera, appunto a Carpanè di San Nazario, il paesino vicino a Bassano, dopo Bassano, sì, proprio imboccando la Valsugana. Sì, esattamente. E proporremo questo concerto spettacolo, è un concerto con canzoni, musiche, e avremo un ospite speciale, Vasco Mirandola, che è un noto attore padovano, ed è una serata dedicata allo scrittore Dino Buzzati. Perfetto. E per cui in scena ci sarà Vasco Mirandola, che leggerà storie, racconti di Dino Buzzati, e noi che eseguiremo delle musiche tratte dal nostro disco che si chiamava Il Disco dei Miracoli, che guarda caso era proprio un disco con canzoni ispirate al lavoro di Dino Buzzati, per cui abbiamo unito queste due cose. E lo spettacolo si chiama Mostri, Miracoli e Misteri, e tratto da questa diciamo messa in scena, da questo spettacolo, vi proponiamo questa canzone che si chiama La Bella Listilina, e racconta la storia di una fanciulla che ritorna a casa tarda sera, o così racconta la leggenda, e si imbatte in alcuni mostri che la vogliono insidiare. E nella canzone abbiamo forse un lieto fine, cosa che magari nella realtà non sempre succede. Insomma, La Bella Listilina. di mandorla, la croda con la luna e l'olio che ti unta. Mandorla, profumerà di mandorla il refolo che in piazza inciampa nella gonna. Come nuvole, le chiavi di conchiglia, frugando il tascapane, che danza nella corsa e si agita il respiro, che gonfia la risacca nascosta nel tuo seno. Sarà che coglierà la polvere pensando all'istilina e al buio che smagliava il nero alle sue calze e l'afferrava alle caviglie lasciando per ricordo due scarpe a ballerina. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Stasera siete in quattro, manca, cioè, Antonio con il contrabbasso fa un po' l'effetto percussivo. Parliamo del batterista che non c'è stasera. Che importanza ha l'effetto della percussione nella vostra musica? Chi vuole rispondere dei quattro? Antonio, che usi, che fai il percussione, anche un po' di percussione stasera. Il basso, contrabbasso. Beh, importanza fondamentale, soprattutto nell'ultimo disco Lado di Rose, e direi che l'aspetto percussivo è stato particolarmente sviluppato e valorizzato. E questo comunque si integra con con gli altri strumenti e con l'idea che vogliamo dare di new folk, esattamente, e quindi di una musica che non può prescindere dai ritmi e dalle percussioni della contemporaneità. Quando nasce un pezzo vostro, chi parte con un input? Non so, Sergio con un suono di fisarmonica, o Marco, o Giorgio, o te praticamente. Dove nasce l'idea? Un'idea che da ognuno, o un'idea che nasce dal gruppo totalmente, compreso il batterista che stasera non c'è, che si sente via radio? Ah, di solito è uno che propone, che ha un'idea, la propone, e dopo questa viene sviluppata insieme. E in particolare ultimamente anche con, appunto, con il nostro arrangiatore Carlo Carcano. Quindi è stato importante, è stato fondamentale l'arrangiatore per portare avanti un discorso di movimento, di novità, tra virgolette. Ma direi di sì, cioè avere una persona comunque di grande esperienza e professionalità quindi un orecchio esterno al gruppo, quindi in grado di giudicare in presa diretta quello che avviene, e quindi poi di manipolare il materiale grezzo che noi proponevamo, è stato effettivamente fondamentale. Quindi un sesto elemento praticamente. Direi di sì, sesto elemento. Nei Beatles c'era George Martin che era il quinto elemento, qui c'è il sesto elemento. E noi abbiamo Carlo Carcano. Esattamente. Anche nei Rolling Stones c'è un elemento fondamentale, il loro arrangiatore. Anche se Richard ha sempre detto che non serviva, lui bastava lui praticamente. Cosa avete deciso di fare? Vi siete accordati per fare un pezzo da disco? E dopo un pezzo dal vivo, com'è il discorso? Allora, senz'altro un pezzo da disco. Sentiamo un pezzo da disco, cosa avete scelto? Pensavamo di far ascoltare Ossigeno. Bello, che è un pezzo molto particolare nel disco, che ricordo io. Sì, è un brano a cui noi teniamo particolarmente, insomma, per le tematiche che tratta, cioè affronta il tema del lavoro, certo, legato alla vita, tutti i giorni. Anche dell'amore. L'arrangiamento era particolare. Sì, anche l'arrangiamento esprime proprio questo senso di indignazione, ecco, che talvolta noi proviamo quando vediamo come il mondo del lavoro, diciamo, incide nella, certo, vita delle persone in modo negativo, insomma. La scintilla originaria fu il disastro, quello della Thyssen, insomma. Però abbiamo visto che anche in piccole dosi questo impatto devastante nella vita delle persone talvolta si verifica anche, insomma, non solo in maniera così eclatante. Tra l'altro, visto che stasera parlavamo di radici, l'ossigeno, come insomma si sa, è abbastanza fondamentale per la crescita, no, dei radici, ma non solo, anche, insomma, e anche per quella delle persone, certo, insomma, è proprio questa richiesta, questo urlo che si chiama ossigeno. Ok. Difenderà dall'urgenza delle presse, dall'altezza dei tralicci, dai morsi della corrente. Quale mano fermerà la precisione della lama? E chi ci accoglierà con mani sulle spalle? Accomodatevi, ecco la nuova fabbrica. Fermatevi alla mensa, che tempo ce n'è. Tempo sgualcito, tempo fatto a pezzi, risaldato, rubato noi due alla gita al supermercato. Tempo uncinato, lancetta nel costato, rubato ai film della domenica mattina, ai giochi della notte, fiato rubato al fiato, ossigeno, ossigeno. Oggi è diverso, oggi ci sono i giornalisti, le donne, i curiosi, le luci, i turisti, a guardarci da vicino e chiedersi perché. Ecco, ci siamo attori di telenovela, acrobati del circo senza rete, tegole cadute dal tetto, memoria senza caschetto. Portami al paese senza campanelli, senza sirene, senza cancelli. Prendimi quando cado, riportami su, in un paese che non sia truccato, che non sia in ostaggio, che abbia più fiato, ossigeno, ossigeno. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eh sì, abbiamo finito, sono le 23:59:46, quindi siamo arrivati alla mezzanotte. Io non so come ringraziarvi di questa vostra bella serata di due ore con noi. Avete suonato, avete cantato, abbiamo parlato della vostra musica. Questo è positivissimo. Sì, per noi è sempre un piacere ritornare a trovarti, Maurizio, veramente ci sentiamo a nostro agio. Chiacchieriamo, ci divertiamo, suoniamo e sapere che ci sono delle persone a casa che si divertono, certo, con noi. Certamente, la radio è sempre un gran divertimento, meglio tante radio e meno televisioni, secondo me. Vabbè, noi non perdiamo occasione per parlare male della televisione. Ecco, appunto. Ok, ripetiamo un secondo, 10 secondi, il disco nuovo come si chiama? Allora, Radici, il nuovo disco della Piccola Bottega Baltasar, che proponiamo anche dal vivo in questa estate, per cui invitiamo tutti quanti a venirci a trovare ad un concerto, magari. E piccolabottegabaltasar.it è il nostro sito per chi vuole curiosare. Ci trovate naturalmente anche in MySpace, anche in Facebook, quindi insomma tutti i portali giusti. Vi aspettiamo. Esattamente, grazie a Michele Ottosò. E stanotte ci salutate con cosa? Ci salutiamo con un pezzo i cui primi versi dicono è giunta mezzanotte, l'abbiamo scelto insomma visto proprio ad hoc e non svegliamo altro. Grazie e buonanotte a tutti. Giunta mezzanotte, si spengono i rumori,